Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness. I'm a winner. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves, I'm a sinner. Then I'll go down to the bar, but I won't cry anymore. I'll hold my whiskey up high, kiss the bartender twice, I'm a loser. Ma vai, ma vieni, e arriva Déjà Vu, eccoci qua tutti insieme. Buongiorno, buongiorno dalla voce di Mary Catalano, anche oggi insieme a voi. Mary the Night apre l'appuntamento di questa mattina, il singolo di Lady Gaga che allieta la vostra giornata, la mia giornata, la giornata di tutti quelli che sono all'ascolto appunto di CRM Happy Radio, dovunque voi siate, anche su internet al www.crmhappyradio.it, il nostro servizio in streaming per voi. Ci potete seguire davvero dovunque, dovunque sia, sul serio, pure sulla rocca. Basta avere un portatilino, dai, facciamo la vita facile ormai, d'altronde è diventata facile in effetti sotto certi punti di vista. E allora bentrovati dunque a tutti quanti, vi ricordo subito il numerino per interagire con me all'interno di Déjà Vu, con voi sino a mezzogiorno, anche per questo ultimo appuntamento della settimana, visto che oggi è giovedì del 17 di novembre, meno male che non è venerdì, se no tutti cominciamo a fare superstiziosi, facciamo gli scongiuri, perché magari è venerdì 17, che durante l'anno è capitato, capita, insomma succede. Oggi no, oggi è giovedì 17 novembre, fin qui tutto ok, almeno da queste parti, e noi diciamo che accompagniamo il tutto con la musica. Vi ricordo i numerini per interagire: il 335-56-37251 è il numero per gli sms, poi lo 0921-92-32-92 il numero fisso. Non dimenticate, appunto, in streaming ci potete seguire su internet al www.crmepiradio.it, da lì potete anche fare le vostre segnalazioni musicali. C'è la finestrella che vi indica come fare per richiedere i brani preferiti da voi anche tramite la nostra pagina internet, il nostro sito internet. E poi non dimenticate che c'è anche Facebook, la nostra pagina, il nostro profilo. Interagite con me in qualsiasi modo, io interagisco con voi o altrettanto, naturalmente, ovviamente. E allora subito la prossima canzone, Love on the Top, Beyoncé. Ancora ciao, pieno di energia a tutti quanti, buon ascolto. Stamattina siamo arrivati letteralmente di corsa all'appuntamento con voi, con Déjà Vu, voi con noi, noi con voi, tutti giù per terra. Vabbè, intanto veramente siamo sempre pieni di cose da fare durante la mattinata, vero? Soprattutto andare al bar e prendersi il caffè con gli amici. Molti lo fanno, beati voi, siamo solo invidiosi di questo. Ma che dico, d'altronde qualche volta lo faccio anch'io. Però non si ha mai abbastanza, si vuole sempre di più. Vorremmo sempre che tutti i giorni fossero così tranquilli, che ci fosse sempre in qualsiasi momento la possibilità di pigliarsi un caffè in tutta tranquillità con qualche amico, magari anche del cuore. Però non sempre così, c'è anche il dovere che ci chiama, ahimè, o forse per fortuna, prendiamo il lato buono della cosa e allietando tutto quanto, come dico sempre io, con la musica che potete segnalare anche voi. Ed eccola la prima segnalazione qui al 3355637251, grazie a Luciano che ci segnala i Blink 182 con All the Small Thing. Ancora ben trovati su CRM Radio. Déjà vu su CRM Happy Radio. Non lo so dove andrò, ancora no. Vado dove vai tu. E ti seguirò, tanto non ho altro da fare più. Aspettavo te da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me. È destino ormai che io diventi quello che fa per te. Aspettavo, sai, da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. assenza di me. Aspettavo te da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. Si sa, il tempo aggiusta sempre tutto, come canta anche Vasco Rossi qui in questo singolo nuovo per lui, Stammi vicino. Vasco Rossi a CRM, uno fra i più richiesti in questo periodo. Su CRM Happy Radio. Nel chiarore del mattino sono un fiore dentro un muro, dove sei? Questa casa mi taglia il cuore, anche il sole non scalda più. Dove sei? Dove sei? Con che forza mi salve? Quale inganno mai mi farò bastare? Dove andrò? In quale abbraccio mi perderò? Per pagare poi tutta la mia colpa di amare chi non ho, non so. Questo mondo ormai corre, Dio non ho veloce. dimmi a quale fede mi stringerò, se non resta più niente in questa vita, e che rimorsi avrò, non so guarire e non so morire senza te. Si allunga l'ombra delle cose, è tardi ormai, tu dove sei, tu dove sei, tu dove sei, e con che cuore mi lasci qui, questo mondo ormai corre ed io non ho velocità. Se non resta più niente in questo mondo, e che rimorsi avrò, non so guarire e non so morire senza te. Molto molto bella, Con che cuore, il singolo che abbiamo appena sentito da Antonello Venditti, richiesto da voi al 3355637251, in particolar modo da Giuseppe. E Venditti ha avuto un'ideona unica, proprio come il titolo del suo album. Al via il tour da Pallolottomatica di Roma il prossimo 8 marzo, e poi un'iniziativa unica, fra virgolette, per Antonello Venditti, perché il lancio del suo nuovo album dal titolo appunto Unica, ha pensato davvero una cosa particolare. Il cantautore romano è il primo artista a proporre al mondo del mercato un box con CD e biglietto per il concerto. Pensate un po', un'idea davvero innovativa, che potrebbe essere anche una bellissima idea a regalo per il prossimo Natale, che ormai diciamo è alle porte, si può anche dire. Oltre che una buona scommessa per l'uomo di Sara, fra virgolette, che consente di portare a casa in un solo colpo di click sia l'album che il biglietto, capace probabilmente di creare un caso per un nuovo modo di vendere l'emozione del concerto e dare qualche boccata d'ossigeno al CD. Lo special pack Age, commercializzato online su www.ticketon.it, contiene, oltre ovviamente al disco, una serie di bonus che faranno la gioia dei fan più esigenti, ovvero la card memorabilia, così si chiama, che funge da titolo di ingresso nel settore parterre numerato per i concerti del tour nei Palasport. Sconti con alberghi, ristoranti e vantaggi esclusivi per i possessori della card, ingresso riservato, accoglienza dedicata a qualcuno in particolare, cartolina autografata, chi più ne ha e più ne metta, insomma. Verrà consegnata all'acquirente da Ticket One della data fissata per l'uscita, insomma. Unica è stato anticipato a fine ottobre dal singolo omonimo e sarà nelle rivendite dal prossimo 29 novembre, per cui cominciate a farvi una bella idea per un pacchetto regalo e comprare dunque questo nuovo lavoro per Antonello Venditti, e trovarci dentro tutte queste belle cose, fra le tante anche il biglietto per i concerti. E allora, per finire, per dire l'ultima su Antonello Venditti, partirà dal prossimo 8 marzo dalla capitale per toccare poi le principali città italiane, proprio il tour per quanto riguarda questo grandissimo cantautore nostrano. Bene bene bene, bando adesso alle chiacchiere, perché arriva la prossima canzone, è un'altra segnalazione da parte vostra. Facciamo un tuffo nel passato con At The Way, What Is Love, il singolo che sentiamo grazie a Mirella. Grazie a te Mirella, continuate a interagire con noi, 3355637251 e poi 0921923292 e www.crmpradio.it, il nostro sito dove interagire, da anche da lì potete anche fare le vostre segnalazioni, c'è la finestrella per fare appunto le richieste, e non dimenticate Facebook, ok? Interagite pure. Yeah. don't hurt me no more. Grande successone del 1993 che rivive ultimamente grazie alla revival fatto da Eminem in collaborazione con Lil Wayne. I due personaggi hanno unito le loro rime per un altro singolo che si rifà a questa canzone di Hathaway, No Love, la canzone di Eminem e Lil Wayne, pezzo che si basa appunto sul campionamento, come dicevamo, del celebre brano targato 1993. La canzone senza ombra di dubbio si candida ad essere un'altra hit, anzi si candida ed è proprio così che è successo, e ha debuttato davvero alla grande ed è stata alla 23esima posizione del Billboard e insomma poi sale, diventa super ascoltata e diventa di nuovo di grande successo grazie appunto ad Eminem e Lil Wayne nella loro versione, naturalmente, che conosciamo benissimo. Però quest'oggi l'abbiamo sentita proprio in versione originale, cantata proprio dall'artefice Hathaway, che la portò al grande successo. Siete sempre su CRM Happy Radio, sempre la voce di Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno per questo giovedì del 17 di novembre. Vi ricordo la replica di questo appuntamento senza interruzioni la notte con Déjà Vu a partire dalle 2. Se proprio siete insonni, non dormite, oppure per forza di cose dovete stare svegli, se state a lavoro e se comunque potete sentire la musica di CRM Happy Radio, sappiate che di notte alle 2 c'è appunto il programma in replica senza interruzioni. E arriva adesso Alessandra Amoroso. È vero che vuoi restare? Questo è il titolo del singolo che sentiamo subito. È quasi mattina, continua a dormire se vuoi. Che stare in silenzio ci fa meno male. Magari torno più tardi. Fuori fa freddo, ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro inverno. E un giorno rinasce mentre siamo impegnati a perderci. Sarebbe un peccato restare a guardare. Oggi mi sembra diverso. Il tuo buongiorno amore non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi inverno. Fermati un attimo e dimmi che cosa vuoi fare. Vero che vuoi restare? E questo tempo difficile va male, ma sì, abbiamo ancora tutto da inventare. Guarda che non si cancella una vita così, che te lo dico a fare. E questo amore impossibile è la storia di un film che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare, è vero. In cucina come macchine ferme a un semaforo. Ti dico un segreto, non so abbandonare. Anche se tutto è diverso, ho così freddo amore, credimi adesso. Domani estate finirà l'inverno. Fermati

Madonna è ritornata con il nuovo singolo molto peperina in questo Give Me All Your Love, ovvero dammi tutto il tuo amore, Madonna su CRM. Una copertina in coppia in vista del lancio americano del suo secondo film da regista. Madonna domina la cover del numero di dicembre di Harper's Bazaar insieme alla protagonista del suo film. Il film si chiama WWE e la protagonista è Andrea Riseborough, mi pare che si pronunci così, elegante e straordinariamente in forma, la signora Ciccone, pronta nel 2012 a partorire un nuovo album, ha parlato un po' di tutto con i giornalisti del magazine, toccando addirittura i tasti dell'adolescenza. Pensate, la chiamavano mostro peloso, chi l'avrebbe mai detto? Lei dice: non mi truccavo e non mi depilavo, i ragazzi mi prendevano in giro e mi chiamavano appunto mostro peloso, è stata una tortura, gli uomini non mi trovavano per nulla attraente, adesso però si è rifatta la grande, devo dire. Lei stessa dice: credo che il mondo non sia a proprio agio con la sessualità femminile, tutto è sempre visto da un punto di vista maschile e la donna è sempre fatta oggetto da un uomo, e persino le donne si trovano bene in questa situazione. Ironicamente, quando si inventano le parti oppure si invertono, addirittura sono le donne a trovarsi a disagio. Credo sia tutto frutto del condizionamento cui siamo state sottoposte. Queste le parole di Madonna, fra virgolette mostro peloso, così chiamata da ragazzina. E chissà cosa staranno facendo quei poveri compagni di classe che 35 anni fa apostrofarono in questo modo colei che ha solo segnato la musica pop degli ultimi 25 anni e si è rifatta alla grande, ha preso una bella rivincita Ciccone, che adesso è anche regista di film. Pensate un po', dobbiamo andare a guardarlo questo WWE. Ok, è arrivato il momento di fare una piccola pausa pubblicitaria, però naturalmente noi ci ritroviamo qua subito dopo, e ovvio con la musica che anche voi ci segnalate, e non può mancare Tiziano Ferro con il nuovo singolo CRM Happy Radio. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro, sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto a bene e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore. E io ho tre certezze, una pinta e qualche amico, tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare, non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Tutta la tristezza sorriso spegne i tormenti, le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza fra me e voi non c'è, non c'è, perché io do a voi, voi date a me tramite i vostri messaggini e le vostre segnalazioni al 3355637251. Poi non dimentichiamo che c'è anche il numero fisso di CRM, ovvero lo 0921923292. Naturalmente potete anche interagire con noi tramite il nostro sito, il www.crmpiradio.it, anche da lì potete fare le vostre segnalazioni, c'è la finestrella, la dovete compilare e mandate le vostre richieste anche su internet e anche la nostra pagina Facebook. Non dimenticate, abbiamo sentito dunque anche Tiziano Ferro con La differenza fra me e te, in questo suo bellissimo nuovo album, ne abbiamo già parlato tantissimo, che si chiama L'amore una cosa semplice, ed è stata finalmente svelata la tracklist del nuovo disco di Tiziano Ferro, che comprende anche un duetto d'eccezione con John Legend. Il cantautore di Latina si è detto estremamente lusingato di questa collaborazione, ha detto: cantare con John Legend è stato un sogno che si realizza, uno di quegli incontri che ti aiutano a ricordare perché ami così tanto la musica. Dal canto suo il cantante americano ha commentato: sono onorato di avere preso parte a questa canzone con Tiziano Ferro, è un artista davvero dotato di un così grande talento e sono felice di aver potuto collaborare con lui. Tiziano e John Legend dunque duettano sulle note di Karma, è così che si chiama il titolo, il singolo, versione inglese di un'altra traccia del disco Smeraldo. Non finisce qui però, perché il nuovo album di Tiziano Ferro, L'amore è una cosa semplice, nei negozi dal 28 novembre, vanta la partecipazione di altri importanti nomi della musica italiana, quella di Rene Grandi, che firma l'inedito che si chiama Paura non ho, e Nesli. Il rapper è stato coinvolto indirettamente nel progetto, visto che Tiziano ha deciso di interpretare la cover di La fine, una canzone per me bellissima, un grande successo del rapper di Senigallia, e insomma la risentiremo in versione nuova nuova insieme a Tiziano Ferro. Detto questo, andiamo avanti con la mostra, la nostra, scusate, musica, e questa volta la musica italiana, quella di Luciano Ligabue, che sentiamo con Il peso della valigia. In questo caso salutiamo Cetti, che ce l'ha segnalata sempre al nostro numero magico 3355637251. Buon ascolto. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui e ti è toccato partire bambina con una piccola valigia di cartone che hai cominciato a riempire, due foglie di quella radura che non c'era già più, rossetti finti ad un astuccio di gemme, e la valigia ha cominciato a pesare, dovevi ancora partire, e gli occhi han preso il colore del cielo, furia di guardarlo, e con quegli occhi ciò che vedevi nessuno può saperlo, e sole, pioggia, neve, tempesta sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, e ad ogni sosta c'era sempre qualcuno, e quasi sempre tu hai provato a parlare, ma non sentiva nessuno, e ti sei data, ti sei presa qualche cosa, chissà, ma le parole che ti sono avanzate sono finite tutte nella valigia, lì ci sono restate, e le tue gambe andavano sempre, sono sempre più adagio, e le tue braccia reggevano a stento il peso della valigia, e sole, pioggia, neve, tempesta sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve, tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto, e braccia per tenere e fianchi per ballare. tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle, un po' più dure a morire. E sole, pioggia, neve, tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare. E mentre ascoltavamo Luciano Ligabue stavo leggendo una notizia nuova, a quanto pare per essere alla moda basta cambiare anche il pomello del cambio della vostra automobile. Se volete essere trendy allora potreste scegliere qualcosa di particolare per il pomello del vostro cambio auto. A volte basta veramente molto molto poco per rendere la propria automobile un oggetto ancora più personale e autentico, e dunque una buona idea per rendere questa cosa, per la vostra auto, affascinante e alla moda potrebbe essere proprio questa piccola modifica al pomello, pomello del cambio, che sicuramente diventa un'idea innovativa, visto che comunque secondo me non ci avevate neanche mai pensato a questa cosa. E allora, se vi piace seguire la moda, potreste aggiungere questo dettaglio, questo accessorio proprio alla vostra macchinina, se ci tenete così tanto. E i soggetti sono davvero infiniti, si va dalle bombe a mano, pensate, alle chiavi inglesi e poi dalle riproduzioni di facce celebri e teschi ai joystick fino alle spillatrici delle birre particolari. Bene bene, svelando questa piccola curiosità, ci accendiamo a fare adesso un po' di pausa, poi ritorniamo naturalmente e continuiamo con la musica richiesta anche da voi qui su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu. CRM Happy Radio. Thank you. your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love. E naturalmente questa voce inconfondibile, riconoscibilissima, era quella di Adele, che abbiamo sentito con l'ultimo singolo per lei. C'è una notizia bella bella per chi ama bere la birra. Ha scoperto un'associazione fra il consumo moderato di birra e la salute del nostro cuore. Sì, l'effetto protettivo che si pensava fosse caratteristica esclusiva del vino è stato evidenziato da uno studio della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, i cui ricercatori ne hanno pubblicato gli esiti sul European Journal of Epidemiology. Stando ai dati, mezzo litro di birra con una gradazione alcolica non superiore ai 5 gradi determina un effetto positivo sulla salute del cuore, e quindi rilassiamoci, perché bere birra con gli amici fa bene. Importante poi non esagerare, come succede per tutte le cose, no? I ricercatori, guidati dalla dottoressa Simona Costanzo, tengono a precisare che la moderazione del consumo è fondamentale per usufruire di questo beneficio. Ovviamente la protezione si ha solo quando il consumo è basso e moderato, mentre con un consumo crescente svanisce, fino al punto che il rischio diventa più alto dei benefici. Quindi cerchiamo di ponderare bene la cosa. Il metastudio comparativo ha messo in evidenza anche l'efficacia del vino, i cui vantaggi sul cuore possono essere stimati in una riduzione del 31% della mortalità cardiaca fra i soggetti che ne hanno un consumo moderato rispetto a chi invece è astemio. Quindi cercate di bere anche un pochino di vino, ma proprio poco, perché fa bene al cuore e basta. Ok, anche se non certificato dal punto di vista scientifico, è probabile che l'azione benefica di vino e birra sia da attribuire alla presenza di entrambe le bevande dei polifenoli, sì, antiossidanti naturali, piuttosto che dell'alcol in sé. Bene, e allora quando andiamo a cena con gli amici, beviamoci sempre un bel bicchierello di vino. Se andiamo al pub, prendiamo la birra anziché la bevanda alcolica, il cocktail super appunto alcolizzato, che alcolizza anche noi poi alla fine, no? Ok, bene, in questo caso però noi facciamo una bella bevuta di musica e ascoltiamo la prossima canzone. Arriva Noemi, Fortunatamente. Mi piace un sacco questa canzone. Mancano circa 35 minuti alla fine di questo appuntamento, abbiamo un sacco di tempo ancora. Non ci porta più il vento, una breccia leggera verso la nostra meta. Davvero non esiste la luna che ci illumini il cammino, non si vede neanche una stella. Non mi porta più il vento come la prima volta che ho provato qualcosa. Davvero il profumo del mondo poco prima di partire per un posto lontano. Piedi piccoli ma il cuore di un gigante. Fortunatamente il destino ha cuore e gambe. Dimmi tu che cosa conta veramente. Tutto è niente, tutto è così importante. Fortunatamente. Quante volte ho sbagliato, era giusto così, sulla pelle sembrava più vero. Se guardassi lo specchio, ora mi perdonerei, ho mai amato me stessa davvero. E mi voglio godere questo momento, quanto durerà. Fortunatamente io non credo alla fortuna, piedi piccoli ma il cuore di un gigante. Fortunatamente il destino è cuore e gambe. Dimmi tu che cosa conta veramente. Tutto è niente, tutto è così importante. Fortunatamente io non credo alla fortuna, nel sorriso della luna, yeah. Sotto i piedi ho le mie stelle, delle vele sulla pelle, yeah. Fortunata è la mia mente, non si aspetta quasi, yeah, niente. Non mi fido di chi dice fortunata. Fortunatamente, io non credo alla fortuna, ma quando mai? C'è chi è veramente fortunato, diciamoci la verità, c'è chi vive fortunato meglio di me o di te o di lui, no? La fortuna esiste in qualche maniera, dai. Vuoi mettere uno che a un certo punto, da che niente, da che si ritrova un bel gruzzoletto in mano perché ha fatto una vincita al Superenalotto? Dimmi tu se questo non è fortunato, ma dai. Allora ragazzi, fra poco vi do una bella notizia che riguarda le gomme da masticare, però adesso invece ascoltiamoci Dandy Warhol con Bohemian Like You, richiesto al 3355637251 da Pamela, che naturalmente ringraziamo e salutiamo. Siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu. E magari mentre camminate avete, che ne so, le cuffiette, l'iPod, sentite CRM, sentite Bohemian Like You dei Dandy Warhols, camminate tranquilli, felici e contenti, tom, e incappate in una chewing gum. Che fastidio, che fastidio quando le chewing gum si attaccano ai piedi, alle scarpe, oppure anche ai vestiti, terribile, eh? Ma sai, e ditemi come fate a togliere le chewing gum dai vestiti, perché io non so come si fa, aiutatemi perché ho un sacco di roba da sistemare. E a proposito di chewing gum, se siamo stanchi di queste disgustose gomme che si attaccano sotto la suola delle scarpe, finalmente qualcuno ha pensato anche a questo. Infatti gli scienziati alimentari della University College di Cork hanno sviluppato una gomma da masticare biodegradabile, pensate, che oltre a scongiurare il problema di cui abbiamo parlato, farà risparmiare milioni di euro agli enti locali derivanti dai costi per rimuoverli da terra. L'invenzione e il risparmio comporterebbero davvero grandi cifre. La gomma da masticare è a base di grano ed è stata brevettata dall'università in attesa di poterla mettere in commercio. Una gomma da masticare biodegradabile ridurrebbe, come accennato in precedenza, in modo molto significativo il costo che naturalmente grava sugli enti locali per rimuovere quelle tradizionali appiccicate sul marciapiede o sullo manto della strada. Secondo uno studio, tale costo potrebbe arrivare perfino a 70 milioni di euro annui, in base alla grandezza della città in questione, ovviamente. Comunque è probabile che passi ancora qualche tempo prima che questa idea passi dal laboratorio agli scaffali. Bisogna infatti dare alla gomma anche un gusto appetibile e gradevole. La gomma biodegradabile non è la prima invenzione di un certo spessore dei ricercatori della UCC, va anche annoverata la birra senza glutine per il pane, che poi così rimane fresco anche fino a 15 giorni, pensate un po'. Per cui arriverà anche questa gomma da masticare particolare. Bene, detto questo, adesso è arrivato il momento di dare spazio alla prossima canzoncina, che naturalmente ci segnalate anche voi, come al solito, al 3355637251, e questo è il numerino che usate più spesso. E allora andiamo a sentire la prossima canzone, proprio i Coldplay, sentiamoli subito con Paradise. E vi ricordo che ci sono anche altri motivi per agire con CRM, ovvero internet, il www.crm.epiradio.it, il sito dove potete fare anche le segnalazioni, c'è proprio la finestrella che vi porta i dettagli su come fare, e non dimenticate la pagina di Facebook, interagite con me anche tramite Facebook, mandate messaggini e fate un po' come vi pare, è importante che fate sentire la vostra presenza. Noi abbiamo ancora 25 minuti a disposizione, per cui abbiamo il tempo di accontentare un po' tutti quanti. Coldplay. In the night, the stormy night, away she flies. E fra poco a CRM Happy Radio, all'interno di Deja Vu, anche la musica di rap. CRM Happy Radio. Ma vi immaginate, uno entra dentro un bar, si vuole fumare una bella sigaretta e se la fuma tranquillamente senza che nessuno lo disturbi, senza andare incontro a multe, multone, eccetera eccetera. Ah, vi immaginate una sigaretta al vapore? È possibile, possibile sì, e pensate un po', il testimone di questa cosa, il testimonial è Vasco Rossi, quindi il tempo della vita spericolata per lui è finito, i vizi di Vasco Rossi vanno tutti in fumo, fumo a vapore però, quello senza nicotina. Il rocker di Zocca reduce da qualche mese da acciacchi, ricoveri, problemi di salute e misteriose ricadute, ha messo la testa a posto dunque, dice basta alle bionde, donne e birre, e insomma non vuole più niente di tutto questo, e c'entra piuttosto appunto questa sigaretta al vapore di cui Vasco, come dicevamo, era testimonial. Non fanno male, si possono fumare dappertutto, assicura il 59enne provato da anni di abusi e convertito al salutismo. Dalla sua pagina Facebook Vasco Rossi ha pubblicizzato le e-sigarette realizzata dall'azienda ferrarese Don O'Brien, apponendo il proprio marchio di qualità. Lo spot vero e proprio il Blasco lo ha fornito via webcam quando si collegava col web e cominciava con i fan dalla clinica di Villalba. Insomma, ha fatto un po' di pubblicità e sembra proprio che sia una idea davvero innovativa. Pensiamoci fumatori, pensiamo a questa sigaretta al vapore che potrebbe davvero rivoluzionare. Mi metto a fumare anch'io se così. Ok, arrivato il momento di dare spazio alla prossima canzone, la musica italiana di Marco Mazzini, che sentiamo con Niente di importante, grazie ad Alberto che ce l'ha segnalato. Non è niente di importante, solo che mi sono innamorato di te, ma non è niente importante. febbre lieve che poi passa da sé. I nostri soliti incontri d'amici speciali, i gesti sincronizzati dei nostri rituali, e ogni carezza mi brucia e guarisce la pelle, lo sai. Ed è difficile poi fingere che sia tutto normale, riconoscere il confine tra sfogarsi e far l'amore. Quando prendi le tue cose mi sorridi, dice tardi e vai via. Non è niente di importante, ma stanotte non mi basta averti così, e forse pensi sia incoerente, disarmante, ma questa volta avrei voluto restassi qui per sempre. Non mi basta essere quello che ti dà una mano quando non parte la macchina o fai qualche casino, sempre lì se ti serve un consiglio e non so darne a me mai. Come un pupazzo dentro un gioco a premi tiro a indovinare in quale vita, in quale letto ti risvegli e vai a dormire. Studio bene le mie carte, punto sempre tutto e non vinco mai. Grida a squarciagola, come siamo abituati a sentirlo cantare, Marco Masini canta Niente di importante. È davvero molto bello questo singolo che abbiamo appena sentito. E vi immaginate, vi alzate la mattina presto, magari le 5, le 6, che ne so, all'alba, dovete prendere il treno e lo prendete pure gratis. Che bello che sarebbe, è un sogno che però si avvera, ma non qua in Italia però, a Sydney. Gli amministratori dello stato di Sydney in Australia hanno sviluppato la proposta di fornire dei treni gratis al mattino presto per favorire la mobilità dei pendolari senza fargli pagare il biglietto. Pensano che viaggiare gratis sui treni all'alba possa essere un forte incentivo a non accalcarsi nell'ora di punta e lasciare più snello anche il traffico delle automobili. Gli enti governativi attendono la risposta del governo locale. Mi sembra davvero un'idea eccezionale, interessante, molto molto molto, come dire, è un'idea che ti fa risparmiare tanto. Ti alzi la mattina per andare al lavoro, ti alzi presto presto, prendi il treno gratis e ti risolve un sacco di problemi, ti semplifica la vita. Questo a Sydney. Andiamo tutti a vivere a Sydney allora. Ah, eccola qua la prossima canzone. Sì, sì, mi piace, questo singolo si chiama Green Light. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon in my big hot air balloon. Into the darkness, I hope I get there soon. There's so many things to do, so many people I need to talk to, and they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened. I got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. Thank my stars for every green. You have no idea what it means. Of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. Something special happened today. I got green lights all the way, yeah, with no big red sign to stop me. Ma quanto ci piace Aloe Black, vi ricordate? I need a dollar, dollar, na na na na na need. Beh, adesso ecco il nuovo singolo, si chiama Green Light, il singolo che abbiamo sentito, e devo dire che è anche più bello del primo, mi sa, ci abbiamo già fatto subito l'orecchio. Ok, siamo quasi in conclusione, c'è ancora qualche canzone da ascoltare, ma c'è anche la pubblicità che è imminente, e noi torniamo subito dopo e appunto ci ritorniamo con gli Example per chiudere in bellezza. Casa Dolce Casa. Una casa meravigliosa, calda ed accogliente, non è un sogno irrealizzabile, ma una realtà. Affidati all'esperienza e alla qualità degli arredi di Mobili Marandano Santo. Camere da letto classiche e moderne, cucine delle migliori marche, Mobilturi e Vama, mobili e camerette per bambini, spa junior e cubica. Mobili Marandano Santo, a Castelbuono in piazza San Paolo 41. Telefono 0921 672 171. Le soluzioni giuste per una casa da sogno. Mobili Marandano Santo, casa, dolce casa. RM Happy Radio. I've never been afraid of the highest heights, or afraid of flying. I've never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. But now I'm off this rock, cause you're scaring me, and I don't like where we're going. I need a new fun fact, cause you're scaring me, and I don't like where we're going. And now you're gonna miss me, I know you're gonna miss me. I guarantee you'll miss me, cause you changed the way you kiss me. Cause you changed the way you kiss me. We used to be so, so, so full. Out green on the background vocals. T-total, we're on the next high. We get by with our so-called soulmate. Wait for each other, chit-chat. But that dried up. Wise up to the cutting-edge facts. Now I'm chilling on my Jack Jones, looking for a way back home, but I can't get back. Our love feels wrong, please want me back. Our love feels wrong, can't hide the cracks. I guarantee you miss me, cause you changed the way you kiss me. Never been afraid of the highest heights, or afraid of flying. I've never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. I need a new fun fact, cause you're scaring me, and I don't like where we're going. I guarantee you'll miss me, cause you changed the way you kiss me. E in chiusura di appuntamento vi do una chicca, sicuramente l'avrete già sentito, però per chi non lo sapesse, l'Italia delle azzurre della pallavolo, superstar praticamente, proprio così. Infatti proprio ieri l'Ital Volley non si è fermata, ha vinto, la squadra azzurra allenata dal coach Barbolini ha battuto la Germania e conquista la nona vittoria consecutiva in World Cup. Si stanno comportando davvero super super bene, un successo quello sulle tedesche che vale doppio, perché l'Italia infatti conserva il primato in classifica con 2 punti di vantaggio sugli Stati Uniti, 25 punti contro 23 delle americane, e stacca ufficialmente il biglietto per le Olimpiadi di Londra 2012. Le azzurre si sono imposte sulla Germania con il punteggio di 3-2 dopo una gara iniziata in salita e conclusa in trionfo. Le tedesche, dopo essersi aggiudicate i primi 2 set, hanno poi mollato praticamente, noi siamo state molto molto molto più brave, per cui abbiamo vinto. E oggi l'Italia si appresta a fare un'altra bella super lotta con gli Stati Uniti, che nella notte avevano battuto 3-2 la Cina e rimane al comando della classifica del torneo. Quindi oggi le americane insieme alle italiane, e sarà una partita molto molto decisiva per la vittoria finale in Coppa del Mondo. Le azzurre sperano di riportare la Coppa in Italia e di confermare il titolo conquistato nel 2007. Lo bianco porta bandiera naturalmente sull'onda di questo straordinario cammino. La Lega Serie A femminile rilancia appunto la candidatura pubblica di Eleonora Lobianco, alzatrice delle azzurre, tornata all'agonismo dopo aver vinto un tumore al seno, e questa è già una grande vittoria. E vai vai azzurre superstar, super straordinarie in questo periodo e in testa appunto al World Cup. Bene, è arrivato il momento dei saluti, perché fra poco arriva anche l'appuntamento con Filippo Glorioso e dunque con carta e penna. Io naturalmente vi auguro un buon proseguimento, vi ricordo la replica che va in onda alle 2 di notte per quanto riguarda Déjà Vu, e poi l'appuntamento in diretta martedì prossimo sempre con Mary Catalano e Déjà Vu. Vi auguro un buon fine settimana e un buon ascolto con carta e penna insieme a Filippo Glorioso subito dopo le news, subito dopo la pubblicità. Bye bye e buona giornata.